Antonio, voto Antonio, voto Antonio, italiani! Voto Antonio, come la rete cambia la politica, di Simone Spezia. Una buona giornata da Simone Spezia, benvenuti a Voto Antonio, la trasmissione che cerca di raccontarvi come la rete cambia la politica, come voi potete cambiare la politica con la rete. Se sentite dei rumori, delle voci, non è il vostro cervello e non è nemmeno un'interferenza, è che stiamo trasmettendo da Capri, dove si svolge il convegno dei giovani imprenditori, che tra l'altro ha deciso di aprire, lo aveva già fatto a Santa Margherita in realtà, a Twitter, i lavori del convegno. Vi ricordo come sempre i nostri contatti: votaantonio@radio24.it, la pagina Facebook è votaantonioR24, l'account Twitter votaantonioR24, anche questo, oppure il mio Simone Spezia, si scrive con la T anche se si legge Spezia. Iniziamo con qualche notizia in breve. The saddest pic on the internet, la foto più triste di internet, il titolo campeggia in una pagina del sito 9gag. In una stanza bianca e triste un uomo siede alla scrivania davanti ad un computer, indossa un impermeabile come se se ne stesse per andare o fosse appena arrivato. Il volto è pallido, scavato, rassegnato. È un'eccellenza italiana nel mondo, perché quell'uomo è Piero Fassino. Forse ne avrete già sentito parlare, ma vale la pena tornare a citarlo. Si tratta del sito Ciusi Sarai Tu, dedicato all'uscita di questa settimana del ministro Fornero, sulla quale torneremo più avanti con l'analisi dei numeri di Riccardo Puglisi. L'obiettivo è raccogliere testimonianze di chi, selettivo, schizzinoso sul lavoro, proprio non lo è stato. Si presenta così: è una pessima e demagogica iniziativa del blog nonleggerlo.blogspot.com. E sempre Non Leggerlo, oddio quanto peschiamo da quel blog, ci regala un video paradisiaco. Umbria, congresso dell'onorevole Scilipoti e del Movimento di Responsabilità Nazionale. Al termine della relazione sulle radici cristiane, il relatore procede alla lettura del Cantico delle Creature. Altissimo, onnipotente e buon Signore, tue sono le laudi, la gloria e l'onore, e donne e benedizione. Segnaliamo l'arrivo di una pagina Facebook che prende un po' in giro il nostro Oscar Giannino. Si tratta di accelerare il declino. Tra le frasi che troviamo, tra le proposte che troviamo, lanciamo oggi il nuovo comitato per chiedere la candidatura di Silvio Berlusconi alle primarie del PD. La sua rinuncia a guidare il centrodestra rappresenta l'occasione per l'inizio di una nuova entusiasmante avventura politica. E ancora, è vero che con la crisi i ristoranti sono ancora pieni, ma anche se sono un po' più vuoti, tanto meglio, così ci danno dei tavoli migliori. A proposito di pagine Facebook, ce n'è un'altra che vi vogliamo segnalare. Si chiama Marxisti per Tabacci, ha già 1640 mi piace. Allora, si presenta in questo modo, la foto iniziale, la foto di copertina, se vogliamo così chiamarla, rappresenta Chavez, Fidel Castro e accanto Bruno Tabacci, in sostanza un fotomontaggio. Altre foto che ci sono dentro: Tabacci rappresentato come Lenin, Tabacci ancora in un manifesto della Russia, dell'Unione Sovietica, e anche spiegazioni come: compagni, stanno provando a sminuire la figura di Bruno, interveniamo in massa in questo sondaggio vergognosamente antirivoluzionario. Insomma, promette di essere una miniera. E ancora un'altra pagina Facebook, qua promette di esserci una vera miniera. Immaginate che cosa succederà quando ci saranno le primarie del PDL. C'è anche una pagina, al momento conta solamente un paio di mi piace, o comunque molto pochi, ve la segnaliamo, potrebbe essere divertente anche questa. Misogini e maschilisti per Laura Puppato Premier. Dopo la nascita dei moderati per Bersani e dei marxisti per Tabacci, si spiega, anche noi scendiamo in campo al fianco dell'unica donna candidato Premier alle primarie del PD. Perché il PD è il partito dove tutto è possibile. Noi adesso ci fermiamo, c'è la viabilità, ci ritroviamo subito dopo per il punto di Stefano Folli. Italiani! Vota Antonio. Come la rete cambia la politica. Ed eccoci, come sempre, in questa seconda parte di Vota Antonio. Vi ricordo la mail, sempre per questa seconda parte di Vota Antonio, il punto è radio24.it, perché in questo angolo, in questa frazione della trasmissione, come sempre, facciamo il punto con Stefano Folli. Il punto di Stefano Folli. Stefano, buongiorno. Buongiorno, buongiorno, ciao Simone. Questa settimana mi sembra che insomma la notizia sia senza dubbio il passo indietro di Berlusconi, sul quale sono fioccate infinite battute. Non stiamo qua a ripeterle, però insomma un segnale, grande segnale di apertura. Una stagione si è chiusa, diciamo, lui non sarà più candidato, non sarà più sul palcoscenico della politica. Secondo me resta subito dietro il palcoscenico, perché immagino che vorrà sapere e forse anche influenzare la direzione di marcia di questo agglomerato che sta perdendo i pezzi, no? Nel centrodestra, che è in una condizione di salute molto cattiva. Però certo non sarà più lui l'elemento guida, quindi questo cambia la storia, prende atto che la sua stagione è finita. Giuseppe dalla provincia di Piacenza ci manda un'email. La sua posizione mi sembra abbastanza chiara, quella di Giuseppe, però insomma te la giriamo così. Ci dice: ma riusciremo rapidamente a liberarci delle scorie di questi 20 anni? Ma sai, le scorie nella politica non è mai così semplice, i processi sono complessi, non si sa mai esattamente qual è il punto di inizio e il punto di fine. E diciamo che il centrodestra si deve rifondare. Io non credo che possa farlo in una linea di continuità con Berlusconi, cioè mantenendo vivo il berlusconismo senza Berlusconi, ecco, non credo. Credo che debba inventare un nuovo modo di stare nella società italiana. Parliamo di quella che è stata una maggioranza molto ampia, che oggi non è più tale, ma che nel corso degli anni, lunghissimi anni del dopoguerra, ha governato l'Italia in una forma o nell'altra. Quindi occorre che qualcuno, un gruppo dirigente, immagino più che una singola persona, sia in grado di reinventare il modo di stare nell'area che si chiama moderata, definizione che a me piace poco, ma di questo si tratta, e ricostruire un rapporto con i cittadini, con gli elettori. Perché ti piace poco, Stefano, per curiosità? Perché non vuol dire molto, dà l'idea di qualcosa di troppo prudente il più delle volte, no? Invece occorre dire che oggi in Italia bisogna essere degli innovatori, bisogna essere capaci di fare delle riforme. Diceva Piero Gobetti, un grande intellettuale liberale degli anni 20, diceva: io sarò un conservatore, ma dopo che avrò cambiato tutto quello che non mi piace, a quel punto potrò conservare ciò che ho costruito. Ecco, noi siamo in quella situazione, no? Più che moderatismo occorre una certa capacità di capire che cosa serve all'Italia, cambiarlo, e dopo potremo conservare delle istituzioni che avremo saputo rinnovare. Maria da Napoli, che è un'elettrice del centrodestra, ci scrive, vi ricordo sempre l'email, il punto è radio24.it, è molto contenta perché dice insomma questo segnale delle primarie anche all'interno del PDL sono una bella apertura, abbiamo imparato qualcosa dal PD, ci scrive. Sì, questo è un processo imitativo evidente, no? Infatti si fa un po' fuori tempo massimo, in maniera un po' frettolosa, ma è chiaro che è un processo imitativo. Mi sta bene, considero positivo sia la procedura faticosa e un po' farraginosa avviata nel centro-sinistra, sia questa imitazione che ne fa il centro-destra. Alla fine da tutto questo emergerà comunque un sistema politico che secondo me dovrà essere ancora molto rinnovato, ma insomma diciamo che i gruppi dirigenti avranno un maggiore grado di legittimazione. Ecco, per queste primarie sono spuntate candidature praticamente di tutti i tipi, ovviamente la Santanchè, della quale tantissimo si è parlato, naturalmente, insomma, presumibilmente ci sarà Alfano. Che idea ti stai facendo? Che c'è anche qua un po' una corsa a candidarsi. Questo è inevitabile, perché sai, quando togli il coperchio della pentola è inevitabile, però io non credo che il centrodestra troverà un'armonia facilmente. Ci sono varie anime in questo mondo, c'è l'anima europeista, quella di Alfano, l'anima radicale, un po' lepenista, quella quella della Santanchè, altre super liberali, Galan, cioè c'è di tutto. Berlusconi, con la sua personalità indubbia, teneva tutto insieme, a prezzo anche di alcune contraddizioni. Adesso sarà difficile che si possa ritrovare un punto in comune, un'armonia, sarà un'opera difficile. Non mi stupirei se alle prossime elezioni politiche il centrodestra si presentasse magari unito da un qualche cartello elettorale, ma insomma diviso in diverse liste. Ecco, a proposito di questo, Stefano, in realtà sembrano riaprirsi anche altri giochi. Segnaliamo che la prima reazione arrivata dalla Lega sul passo indietro di Berlusconi, tra l'altro, visto che siamo insomma, in questa trasmissione, è arrivata via Twitter, ed è un tweet proprio di Roberto Maroni che dice: il passo indietro di Berlusconi è un atto di generosità che apprezzo e che apre nuove prospettive per il futuro. La seconda parte di questa frase mi sembra centrale. Il riavvicinamento potrebbe essere nelle cose, cioè che Maroni e Alfano avessero delle sensibilità abbastanza vicine, si era già detto. Beh, a questo sì, punto certo. I giochi si riaprono. Ma no? Sì, ma Maroni e Alfano sono fatti per intendersi. Questo porrà dei problemi anche a Casini, perché anche Casini dovrà decidere che cosa fare via via che si dovesse consolidare un PDL con Alfano e magari Maroni che lo appoggia. E d'altra parte Maroni ha anche il problema della Lombardia. La Lombardia, se la Lega non vuole perdere tutto, deve cercare di avere un atteggiamento realistico verso quello che rimane del PDL. Ci sono arrivate molte mail, oltre dopo questo passo indietro di Berlusconi, l'annuncio delle primarie. Matteo Renzi sul suo profilo Facebook ha subito detto, insomma, pensa se queste primarie che Berlusconi ha definito aperte le facessero più aperte di quanto non sono le nostre. Questo rientra naturalmente nella battaglia che Renzi sta facendo allo sfinimento a questo punto sulle regole per le primarie del PD. Ci sono arrivate tante email in realtà in questo senso di ascoltatori che ci scrivono, insomma, effettivamente ha ragione Renzi, sarebbe una bella figuraccia se il PD le facesse più chiuse a livello appunto di accesso al voto. Sì, guarda, rispetto. Sì, ho capito. Guarda, io penso questo, che occorrono delle regole, non è che si possono fare adesso, ma occorrerebbero delle regole neutrali che valgono per tutti i partiti che intendono usare questa procedura per scegliere i loro gruppi dirigenti. Tutti i partiti dovrebbero sottoporsi a delle regole neutrali, come avviene più o meno negli Stati Uniti. Allora, oggi non è così e quindi ci sono infinite ambiguità e polemiche di tutti i generi. Speriamo che, diciamo, dalla prossima volta avremo invece questo codice comune. Questo è fondamentale. Poi l'altra domanda che mi sembra sottintesa alla tua è: ma questa vicenda del centrodestra aiuta o danneggia Renzi? Cioè, il fatto che anche il centrodestra faccia delle primarie è un aiuto oppure in sostanza è Bersani che se ne può avvantaggiare? Io credo che il fatto che non ci sia più Berlusconi sulla scena è qualcosa che può mettere un po' in difficoltà Bersani, io credo. Bersani aveva bisogno di Berlusconi come avversario per poter tenere compatto il fronte del centro-sinistra. Detto questo, io penso che Bersani sia ancora avvantaggiato rispetto a Renzi nel gioco delle primarie del centro-sinistra. E dall'altra parte, però, se il centrodestra riuscisse a trovare un volto nuovo con un buon grado di investitura popolare, riuscisse a presentare alle primarie dei volti interessanti, anche questo forse potrebbe danneggiare Renzi alla fin fine, no? Perché si è molto detto che quelli che chiamiamo indecisi e che per gli americani sono gli indipendenti, che forse è un termine più corretto a questo punto, potrebbero decidere di votare Renzi, oppure se il centrodestra, perché non vogliono votare Berlusconi, oppure se il centrodestra fa le primarie, tutto sommato, insomma, si può spostare, sì, da quella parte. È giusta la tua riflessione. Naturalmente non ha una risposta certa, perché in questo momento quello che prevale è un elemento di grande mobilità del sistema politico. Ecco, quello che forse si può dire è questo, che dopo che abbiamo perso un anno di governo Monti, in cui il sistema politico poteva, all'ombra di quello che stava facendo il governo sul piano della gestione della cosa pubblica, il sistema politico davvero poteva rinnovarsi, non ha fatto nulla di tutto questo, non abbiamo neanche la legge elettorale, altre riforme non se ne parla neanche, però adesso da un punto di vista, diciamo, di gioco politico e di, diciamo, scombussolamento delle classi dirigenti, effettivamente qualcosa si sta muovendo. Renzi è uno che ha dato il via, diciamo, alla valanga qualche mese fa. Adesso lui è, anche lui corre, diciamo, cioè su queste grandi ondate che il cui sbocco alla fine può essere imprevedibile. Questo riguarda sia il centro-sinistra che il centro-destra. E questo, ripeto, porrà dei problemi anche alla terza forza, a chi si pone fra i due schieramenti, perché i due schieramenti stanno modificando qualche cosa di se stessi. E quindi questo, anche per i gruppi che si collocano al centro, sarà un problema da risolvere. Ultima domanda, Stefano, riguarda quello che avverrà domani mattina a partire dalle 8. Dalle 8 alle 22 si vota in Sicilia, solamente domani, solamente la domenica, 10 candidati, 10 che si contendono la presidenza della regione, sostenuti da 19 liste, una discreta confusione. Che idea ti sei fatto anche in relazione a quello che, agli effetti che può avere sul PDL questa vicenda? Guarda, se pensiamo agli effetti sui siciliani, temo che non avranno un governo efficiente. Questa carica elettorale di tutte queste liste e tutto ciò che è arrivato prima in termini di, insomma, di scandali, di sostanziale fallimento finanziario della regione, beh, insomma, tutto questo mi fa pensare che sarà molto difficile dare un governo efficace all'isola. Per quanto riguarda il piano nazionale, è chiaro che la Sicilia è come sempre un laboratorio, e quindi sia il PDL che il Partito Democratico ricaveranno delle lezioni dal voto, e da come andranno le cose si potrà capire meglio anche la rotta sul piano nazionale di questi schieramenti che abbiamo descritto come in cerca di un'identità. E vedremo anche cosa farà Grillo, tra l'altro, perché Grillo, la campagna è veramente, certo, a tappeto. Grillo è in condizioni di ottenere un grosso risultato in Sicilia, territorio tra l'altro che non è di quelli che lui frequenta, e quindi sarebbe un risultato politicamente significativo. E ovviamente questo ci sarebbe un grande campanello d'allarme, perché ci farebbe capire, confermerebbe ciò che pensiamo, cioè che le prossime elezioni politiche avranno questa grande incognita della lista antisistema, con tutta la sua carica anche innovatrice per certi aspetti, ma profondamente destabilizzante. Naturalmente non ci resta che attendere domani. Vi ricordo ancora l'email il.etradio24.it, oppure anche quella della trasmissione votaantonio@radio24.it. Come sempre, pagina Facebook, Twitter, insomma, trovate tutti i riferimenti. E ringrazio Stefano Folli. Stefano, buona giornata. Grazie a te, anche a te. Noi ci fermiamo, ci ritroviamo subito dopo, facciamo il punto come sempre con i numeri di Riccardo Puglisi. Questa volta vi sareste aspettati Berlusconi, invece ci occupiamo del ministro Fornero. Italiani! Vota Antonio. Come la rete cambia la politica. Ed eccoci alla terza parte di Vota Antonio. Io vi avverto già da adesso, se sentite qualche strano rumore di sottofondo, un sottofondo musicale che non è il nostro, lo ripeto perché non fosse in ascolto all'inizio della trasmissione, è perché ci troviamo a Capri al convegno dei giovani imprenditori, dove tra l'altro hanno deciso di inserire, l'hanno già fatto a Santa Margherita Ligure, l'hanno fatto anche quest'anno, inserire, insomma, delle finestre su Twitter, quindi anche collegato, se volete, alla nostra trasmissione. Terza parte di Voto Antonio, come sempre, con i numeri, con un'analisi dei dati, con Riccardo Puglisi. Ben ritrovato, Riccardo. Buongiorno a tutti, buongiorno Simone, buongiorno agli ascoltatori. Al telefono questa volta, ti sento distante rispetto al solito, però insomma, via. ci siamo, mentre invece qua a Capri, insomma, le cose vanno un pochino meglio. Allora, Riccardo, sì. Questa settimana, come già dicevo poco fa, forse i nostri ascoltatori si sarebbero aspettati una bella ricerca su Berlusconi, e invece abbiamo deciso di prendere Fornero, sia come nome Fornero, sia come hashtag, appunto Fornero, e poi naturalmente Ciusi, il trending topic che è rimasto insomma in cima alle tendenze di Twitter per parecchie ore. Dunque, che cosa hai trovato? Cosa hai scovato? Ho cercato la parola Fornero su Twitter, quindi ho cercato per una settimana a partire da mercoledì andando indietro, e si vede evidentemente come l'episodio dell'intervento della Fornero, in cui ha usato questa parola Ciusi, schizzinosi, ha determinato un'esplosione del numero di tweet a proposito di lei, in cui lei viene nominata. E questo Riccardo, dico, questo è abbastanza normale, lo diciamo sempre, no? Perché due motivi. Innanzitutto, vabbè, perché questa è chiaramente un'affermazione che ha fatto discutere molto, ha fatto anche arrabbiare. Assolutamente sì. E poi dall'altra parte perché comunque, oltre ad essere un social network, Twitter è anche un sistema di news nei fatti, e quindi poi chiaramente quando c'è una notizia importante questa rimbomba immediatamente in tutto il sistema. Assolutamente una cassa di risonanza, si può vedere un numero immediato domenica, il numero di tweet in cui veniva nominato il ministro Fornero era 200, lunedì diventano praticamente 6.000, quindi diventano 30 volte tanto. E teniamo presente che la notizia è venuta fuori verso l'ora di pranzo, quindi già una parte della giornata non sarebbe neanche compresa nell'orizzonte di tempo in cui questa okay. parola Ciusi poteva essere interessante per un pubblico italiano. Ecco, quello che ci interessa sempre, Riccardo, è andare a vedere la correlazione tra le parole che cerchiamo o tra le persone che andiamo ad analizzare e altre parole che troviamo all'interno dei tweet. A questo punto voglio capire da te a che parole non, possibilmente non quelle volgari, viene affiancato il ministro Fornero. Come dicevo l'altra volta, diciamo, c'è molta varietà nelle possibili parole volgari, quindi io non le vedo tra le parole con la frequenza maggiore. Io vedo assolutamente le parole relative alla notizia e relative all'argomento. Quindi vedo per esempio la parola giovani, la parola lavoro, cioè le parole relative alla notizia stessa. Vedo la parola RT, ovvero sia la notizia e anche il commento intelligente, ritenuto intelligente, divertente, si sparge nella rete di Twitter molto velocemente. La parola Ciusi entra frequentissimamente nel numero come frequenza sui tweet, quindi arriva a essere il 40%. Sentite, il 40% dei tweet con dentro Fornero ha dentro la parola, a un certo punto la parola Ciusi. Nelle parole vedo questo giovani, lavoro, schizzinosi, quindi la notizia. Quindi sostanzialmente la notizia. Ecco, dall'altro lato, oltre alle parole che compongono la notizia, che altro troviamo? Troviamo alcune cose in generale sul modo in cui le persone interagiscono, ovvero se io vedo segni del fatto che il numero la percentuale di dialogo scende, ci sono meno casi in cui le persone sostanzialmente stanno rispondendo a qualcun altro, non c'è dialogo, non c'è un botta e risposta, c'è la notizia che si sparge e ci sono dei commenti, ripeto, intelligenti, divertenti o entrambi, che si diffondono moltissimo. Quindi ad esempio abbiamo alcuni commenti molto seri di Ezio Mauro, c'è un commento di Ezio Mauro sui giovani che si devono accontentare, e insomma Mauro dice talvolta sembra i ministri che non sappiano cos'è la politica o la vita reale o entrambe, quindi fa riferimento all'aspetto del noi e loro, il ministro che cerca di capire qual è la vita lavorativa dei giovani, e dall'altra parte anche l'opportunità politica di quello che ha detto. Quindi questa è stata sicuramente la fase più retweetata, perché è arrivata a 300 circa retweetate. Poi c'è un altro messaggio di Alessandro Robecchi, il giornalista, che fa riferimento ai dati numerici, quindi dice 35% di disoccupazione giovanile. Il messaggio è pesante, credo che il ministro del lavoro Fornero dovrebbe scusarsi di mettersi all'istante, quindi questo è un messaggio forte che è stato rilanciato. E poi la figlia della Fornero. Ecco, l'elemento della dialettica, noi, loro, che secondo me il ministro non ha adeguatamente pesato prima di utilizzare questo termine, emerge chiaramente nel numero di tweet che mi ha veramente colpito, in cui viene nominata la figlia, cioè la figlia come persona che non ha problemi a... che non ha problemi sostanzialmente a dover scegliere un lavoro, a prendere un lavoro di livello più basso, perché comunque tramite aiuti, questo è il messaggio, tramite la posizione di forza della madre e del padre, padre riesce a ottenere comunque degli incarichi ragguardevoli, ben remunerati, eccetera, eccetera. Per esempio, un esempio di un messaggio: chissà se la figlia della Fornero si sarebbe accontentata di andare a fare la donna delle pulizie o la cameriera. Quindi ci sono questi messaggi forti e che si focalizzano sulla relazione familiare, che secondo me dice molto, cioè nel senso dice molto su quest'idea per cui l'ottenimento di un contratto di lavoro, più che dipendere dal merito, dipende dalla connessione familiare. Devo dire che è una lettura forte, ma nemmeno troppo sbagliata. Grazie anche per questa settimana, Riccardo Puglisi. Io, tra le altre parole che ci sono all'interno, c'è anche stay, no? Un 3,4% di citazioni, perché è girata molto la battuta stay hungry, stay choosy, che insomma, stay tranqui, stay choosy, che non è niente male. Grazie Riccardo anche per questa settimana, buona giornata. Noi ci fermiamo adesso, c'è la viabilità e dopo parleremo di un esperimento che è stato lanciato questa settimana dalla trasmissione di Michele Santoro, Servizio Pubblico, un esperimento su una piattaforma legislativa per le proposte di legge, della quale vi abbiamo tra l'altro già raccontato, che si chiama Liquid Feedback, una piattaforma per le proposte di legge il più possibile aperta a tutti, e che serva a portare delle idee di fronte alla futura classe dirigente, a quella che uscirà fuori dalle elezioni del 2013. A tra poco. Italiani! Vota Antonio. Come la rete cambia la politica. Ed eccoci di nuovo, come si diceva in questa parte della trasmissione, abbiamo deciso di occuparci di un esperimento nel quale, ve lo dico subito a scanso di equivoci, sono in conflitto di interessi, nel senso che sono personalmente coinvolto, fatto parte di una, lo dico molto così con una certa umiltà, di una cabina di regia, insomma, chiamiamola così, di un esperimento che ha voluto provare la trasmissione di Michele Santoro, Servizio Pubblico. Come sapete, la trasmissione è andata in onda per la sua prima puntata giovedì, tra l'altro con un eccellente risultato di ascolti, ed è un programma per provare un tentativo di democrazia liquida, così si chiama. Se cercate anche nell'archivio delle nostre puntate troverete qualcosa su questo. A proposito di Liquid Feedback, è un sistema utilizzato dai pirati tedeschi per il voto online, chiamiamolo così. Un'altra premessa la faccio ancora una volta: se sentite strani rumori di sottofondo è perché stiamo trasmettendo da Bari, dal convegno dei giovani imprenditori di Confindustria, dal convegno dei giovani imprenditori di Confindustria, quindi insomma qualche rumore di sottofondo ci sarà. Saluto Giulia Innocenzi di Servizio Pubblico. Giulia, buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, che cosa vi è venuta in mente? Perché insomma la sensazione, l'idea, insomma, che vogliate fare un partito potrebbe starci. In realtà mi sembra di capire, non avrei aderito altrimenti, non è così. Non è assolutamente così. Quello che ci è venuto in mente è che fuori c'è tanta rassegnazione, si guarda ai fatti che segnano la politica dei nostri giorni e non si sa più come uscirne. Noi abbiamo voluto dare uno strumento ai cittadini, che è la piattaforma che tu hai raccontato, la piattaforma Liquid Feedback, quella usata appunto dai pirati tedeschi. L'abbiamo voluta dare proprio per poter creare un enorme partecipato programma politico dal basso, con l'aiuto, le idee, gli stimoli, l'esperienza, le capacità di tutti, per poi portare queste proposte, queste idee proprio a quei politici che sembrano occuparsi soltanto di primarie, candidati, leader, ma non si occupano invece dei programmi, delle idee. Al momento siamo a una campagna elettorale senza visioni del mondo. Giulia, però di leader vi occupate pure voi in realtà, perché avete lanciato una votazione sul vostro sito per scegliere chi poi contrapporre a Monti, forse. Come funziona? Noi diciamo che siamo alla ricerca di un leader che non c'è, cioè i partiti hanno fallito nella formazione della classe dirigente e della classe dirigente politica, e noi, attraverso una sfida diciamo così anche simpatica, mettiamo a confronto le persone che sono in testa ai sondaggi per premier preferibili dagli italiani nel 2013, E questi saranno quelli che si confronteranno poi con le proposte che emergeranno dal Partito Liquido, cioè io ogni settimana a quelli che rimarranno in gara, perché ricordiamolo, ogni settimana ci sarà un eliminato, che sarà eliminato dal voto di internet insieme a quello del televoto, e io ogni settimana uno dei partecipanti alla nostra sfida sottoporrò le proposte del Partito Liquido per vedere se sono d'accordo, se hanno voglia di implementarle. Ieri per esempio, giovedì, ho provato a fare la sfida con Monti, la legge anticorruzione, diciamo che lui non ha molto colto, non aveva molta voglia di rispondere, però Giarda, il ministro per i rapporti col Parlamento, ci ha dato le nostre soddisfazioni, quindi diciamo ogni settimana ci sarà questo confronto. Un micidiale talent show per eventuali leader. Su questa piattaforma, sull'uso di liquid feedback da parte di servizio pubblico, io vi suggerisco, poi troverete il link sul nostro sito, un post che ha fatto Luca De Biase, che è un giornalista del Sole 24 Ore e fa parte sempre di questa cabina di regia, dove però sono ben chiariti alcuni dei dubbi che ci si possono porre. Uno dei più interessanti, e che vorrei girarti, Giulia, poi là trovate anche le risposte di De Biase, le risposte che dà e si dà lui a queste domande. Il pubblico capirà, sarà attivo e indipendente o passivo nei confronti della trasmissione? E ancora, che rischio c'è che la proposta, per esempio fatta su liquid feedback, di una persona come te, no? Che è certamente nota, che ha certamente un'influenza anche televisiva, non scavalchi magari proposte più intelligenti fatte da altri attori che si trovano su quella piattaforma? Ti rispondo con alcuni dati. Noi fino a giovedì abbiamo tenuto la piattaforma semichiusa, nel senso che abbiamo dato alcuni giorni di prova alla rete di donatori di servizio pubblico, i famosi 100.000 che avevano donato i 10 euro, e a cerchie di persone che diciamo stavano con i nostri creatori, fra cui ci sei anche tu appunto, e solo in due giorni, e da giovedì l'abbiamo aperto, stiamo toccando quota 5.000 partecipanti e ci sono già 300 proposte, alcune anche molto interessanti. E la piattaforma Liquid Feedback mi sembra molto meritocratica, nel senso, se c'è una proposta che coglie l'interesse e che va dritta al punto e che magari può essere anche emendata proprio grazie alla piattaforma, quella proposta colpisce. Poi c'è sicuramente il sistema delle deleghe, però penso che sia un sistema molto efficiente, nel senso, se io non sono un'esperta di come smaltire i rifiuti e di come risolvere il problema rifiuti in Italia, bene, io posso dare la mia delega proprio per quell'area a una persona che io ritengo esperta. Quindi diciamo è anche un sistema collaborativo che non penso subisca il problema di personalizzazioni, perché sono proprio le idee a emergere. Grazie a Giulia Innocenzi di Servizio Pubblico per essere stata con noi. In bocca al lupo, naturalmente. Vi teniamo sott'occhio, insomma, vedremo come evolverà. Ma grazie a te soprattutto, che hai dato la tua fiducia a questo progetto e soprattutto che lo stai portando avanti, perché senza questa cerchia di persone influenti sulla rete, esperte, non avremmo potuto fare il nostro Partito Liquido. Quindi grazie a te e a tutti quelli che hanno aderito. Grazie a te per influente ed esperto, anche se non penso che sia centrato. Scambio i complimenti e buona giornata, Giulia. Altrettanto. Altri dettagli su questa iniziativa che vi abbiamo appena raccontato li trovate naturalmente sul sito di Servizio Pubblico, vi basta cercare Servizio Pubblico su Google e ovviamente lo troverete. Ci interessa anche un vostro feedback, un vostro riscontro, insomma avere la vostra opinione, la potete esprimere ovviamente anche attraverso i nostri mezzi. Potete scriverci a votantonio@radio24.it, potete visitare la nostra pagina Facebook votantonioR24, dove sono graditissimi anche suggerimenti sulla trasmissione, segnalazioni se volete. C'è anche l'account Twitter votantonioR24, c'è il mio account Twitter, Simone Spetia, se volete potete seguirmi e scrivermi anche là. Si scrive Spetia con la T, anche se si legge Spezia. Io ringrazio per la parte tecnica e per l'aiuto alla messa in onda qua da Capri, dove si sta svolgendo il convegno dei giovani imprenditori di Confindustria, Pietro Lacorte e Davide Ciocia. Un ringraziamento come sempre a tutti voi per l'ascolto da Simone Spezia. Buona giornata. Italia!